Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Affrontare i problemi del trasporto merci su strada e rilanciare il settore, partendo direttamente dalle esigenze registrate ogni giorno da chi opera sul territorio. Con questo obiettivo, ieri e oggi, si è svolto a Roma un seminario nazionale organizzato da CNA FITA per pianificare la futura attività dell'associazione. Ai due giorni di lavori appena conclusi hanno partecipato le imprese artigiane che svolgono trasporto per conto di terzi, fornendo nuovi spunti e suggerimenti concreti. Quello che è emerso è una fotografia dello stato di salute del settore e una serie di proposte che dovranno tracciare le politiche di CNA FITA da qui ai prossimi anni. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Due giorni per fare il punto della situazione di un settore, quello dell'autotrasporto italiano, che sta vivendo una stagione difficile, con forti problemi di dumping a causa soprattutto delle imprese dell'est Europa, ma nello stesso tempo alle prese anche con una forte fase di crescita del mercato. In questa fase FITA CNA, una delle principali associazioni del settore, si riorganizza, lo ha fatto appunto in questi ultimi due giorni di confronto con i propri iscritti, e noi ne parliamo in compagnia di Patrizio Ricci, che da qualche mese è il nuovo presidente di CNA FITA. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a radioascoltatori. Allora, perché questa esigenza di riorganizzazione da parte di FITA CNA? Nel mandato ci siamo detti che sicuramente il rapporto che c'è tra l'associazione e i suoi iscritti deve essere un rapporto più franco, più sincero e più fatto di confronto e incontri. Ecco che perciò abbiamo deciso di fare questa sorta di time out, chiamiamolo così, conferenza organizzativa interna, per chiedere ai nostri associati e confrontarci con loro sul futuro e su cosa deve fare la nostra associazione. Ecco, presenze importanti a questi due giorni di incontri, tra cui ovviamente quella del ministro dei trasporti, Graziano Del Rio, che ha voluto con un video messaggio appunto ricordare gli impegni del governo su questo fronte. Ma proprio a questo proposito, qual è la situazione di questo settore? Quali sono in questo momento, secondo lei, le principali criticità che il governo, le associazioni di categoria devono affrontare? Abbiamo capito attraverso poi il confronto con i nostri associati che i temi principali che riguardano poi i costi, le normative, il confronto con l'Europa nell'armonizzazione delle regole, sono i temi che stanno più a cuore al nostro mondo associativo. Questo per dire che alla fine siamo un mondo che vuole e pretende le regole, ma che queste regole siano fatte per poter rimanere poi sul mercato in una certa maniera, che poi riguarda la legalità, per poter rimanere lì e fare il nostro dovere e comunque portare quegli interessi che interessano poi l'associazione. Questo è un'associazione, una portatrice di interessi. Certo, e a proposito di regolarità del mercato, tra le varie presenze appunto a questi due giorni, anche quella della presidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, organismo del Ministero dei Trasporti, che appunto sta conducendo una vera e propria battaglia sulla regolarità di questo mercato attraverso il portale dedicato appunto a questo settore. Torniamo a questa riorganizzazione, Ricci. Voi avete individuato dei gruppi di studio per individuare appunto dei macro indirizzi di lavoro. Quali sono questi macro indirizzi? I macro indirizzi riguardano il contratto, riguardano la viabilità, perché poi parlando di trasporto eccezionale ci scontriamo poi con il mondo della viabilità, riguardano le norme europee, riguarda anche il confronto con le altre associazioni, sia all'interno di UNOTRAS di cui facciamo parte che all'interno dell'Albo degli Autotrasportatori. Tutto questo è quello che riguarda il nostro mondo e noi a questo vogliamo dare e daremo delle risposte. Le diamo in base a quello che poi ci serve, perciò contributi assolutamente innovativi e concreti per tracciare questa strada, per tracciare quello che sarà il mondo dell'autotrasporto, non visto sempre in questa maniera di emergenza, ma un percorso con degli obiettivi anche a lunga gittata. Perciò non solo le soluzioni che riguardano il domani, c'è la legge di stabilità che è in via di approvazione, ma anche tutto quello che riguarda il nostro mondo per i prossimi 4, 5, 10 anni. Certo, che sono gli anni in cui si svilupperà il cosiddetto pacchetto autotrasporto, cioè questo insieme di nuove regole che stanno arrivando dall'Europa e che dovrebbero un po' ridisegnare anche questo settore, tant'è vero che anche di questo si è parlato nel corso dell'incontro. Il ministro Delrio, nel corso del suo intervento, ha rilanciato l'appuntamento che le associazioni di categoria avranno con il governo fra qualche giorno, a fine mese, nel corso del quale dovrebbero essere anche affrontate alcune tematiche particolarmente calde. Sì, noi ringraziamo il ministro per questo apporto, per questo contributo. Il ragionamento è che il nostro mondo, che è un mondo di imprese, ha bisogno di risposte. È fuori di logica che ogni cosa va contrattata, è fuori di logica che comunque su alcune partite non la vediamo alla stessa maniera. Questo però non vuol dire che non ci deve essere un confronto, i confronti sono sempre costruttivi e alla fine le imprese non dico che si adeguano, ma comunque costruiscono il proprio business in base alle regole certe. Lasciare il nostro mondo in una sorta di limbo non regolamentato distrugge le nostre imprese e crea questi attriti, questi malcontenti che poi magari sfociano in alcuni casi, e noi non vogliamo questo, sfociano in alcuni casi, ripeto la frase, per dare un po' anche il senso di quanto è successo poi negli anni passati, che non è il nostro mondo, noi facciamo impresa e le imprese vogliono risposte certe. Certo, a proposito di confronto, c'è un altro confronto particolarmente delicato, quello fra le associazioni di categoria, le associazioni datoriali e i sindacati sul rinnovo del contratto collettivo. C'è già stato un fermo nei giorni scorsi, si riprenderà a trattare nei prossimi giorni. Quali sono le sue aspettative su questo confronto? Anche qui noi con i sindacati abbiamo aperto un tavolo che è una sorta di tavolo dell'artigianato e anche qui ci aspettiamo delle risposte sensate, delle risposte concrete. È fuori di logica che noi non vogliamo togliere i diritti acquisiti come qualcuno invece l'ha voluta dipingere. I diritti acquisiti rimangono, certo è che anche il sindacato, come noi, come associazioni, abbiamo capito che il mondo è cambiato e su queste prerogative, su queste basi, dobbiamo costruire quello che sarà il futuro insieme. E non certo con degli scontri che si sono verificati, secondo me, non ha nessun senso proclamare poi alcune forme di protesta, quando invece bisognerebbe lì a quel tavolo trovare soluzioni. Ecco Ricci, siamo in chiusura. Un'ultima battuta proprio sul modello organizzativo dell'autotrasporto. C'è chi dice che sia un modello troppo orientato verso il cosiddetto padroncino, cioè l'artigiano, cioè un'impresa monoveicolare, con uno o più veicoli, ma comunque un'impresa di dimensioni minori rispetto a quella che troviamo generalmente nel resto dell'Europa. E quindi la domanda è: ma il modello del padroncino è un modello ancora vincente? Io credo che noi siamo solo aziende che offrono servizi. Perciò il modello sviluppato da parte del nostro mondo, del mondo dell'autotrasporto, è il modello per dare risposte al mondo imprenditoriale italiano. Dove c'è un'impresa, un'azienda che ha bisogno di un padroncino, di un monoveicolare, che fa un servizio di un certo tipo, là ci sarà una risposta di questo tipo. Poi starà a noi vedere se quel modello sarà meglio metterlo insieme a una rete di impresa o a qualcos'altro o a consorzi. Ma questo spetta a noi. Continuare a dire e ripetere che le aziende devono essere più strutturate, numericamente più grosse, secondo me non è quello che il mercato in questo momento ci chiede. Noi diamo solo risposte. Se le aziende in questa fase del dopo crisi sono cresciute è perché il modello Italia è cresciuto, cioè le imprese dove noi andiamo a caricare, dove noi offriamo servizi, sono cresciute, perciò hanno bisogno di risposte diverse. Ci sono ancora